24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Buongiorno, eccoci qua, sono le 6:33 minuti e anche oggi fino alle 9 siamo in diretta con 24 mattino e con Miriam Lucchetti in redazione, Peter Bescapè, il nostro alpino in regia e il solito consiglione. But please relax. Il consiglione è il consiglio del Presidente del Consiglio, quindi una roba gigantesca proprio, no? Il Please Relax di Mario Monti. Possiamo aprire il nostro bar, dai, ufficialmente la Claire è alzata e Nicole Minetti. È qua a offrire il caffè a tutti quanti. A Carlo Rienzi che ritrovo. Buongiorno, presidente. Buongiorno. Del Codacons. Ben svegliato. Buongiorno. Eccoci qua. Saluto anche Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Buongiorno e ben ritrovato anche a te, Maurizio. Però come briatore. Buongiorno, Alex. Ah, grandissimo. Buongiorno, Alex. Così mi chiamano Briatore e mia mamma. Ecco, Flavio Briatore. Ma ce l'abbiamo, Briatore, che mi saluta. Buongiorno, Alex. Buongiorno a tutti. Peter mi fa... Non mi guarda. No, non ce l'abbiamo. Ma sì, ce l'abbiamo. Guarda bene. Cioè, ci sono una serie di file. C'è un saluto di Briatore. Io che saluto Briatore. Te l'ho tagliato io ieri, personalmente. Ce l'abbiamo. Flavio Briatore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti. Alex, buongiorno e buongiorno a tutti quanti, eccolo qua. Allora vi devo fare subito un quiz. Chi ha detto nella storia italiana e nella storia mondiale già mi sono tradito nella domanda, siamo sull'orlo del baratro, il paese è allo sbando, non lo posso permettere, ci sono miriadi di persone che mi assediano e mi chiedono di candidarmi. Allora, Carlo Rienzi, do tre possibilità: A, Nelson Mandela, B, Aung San Suu Kyi dalla Birmania, C, Silvio Berlusconi. Chi l'ha detto secondo Carlo Rienzi? Secondo me lo pensa Monti. Ma questo non è male, Mario. Ma non è tra le tre possibilità, quindi deve scegliere tra una delle prime, tra A, B e C. Non è che. Ma no, è Mario. Lo pensa Monti, ma lo ha detto? Non lo so, forse Mandela. Mandela. Maurizio Tortorella, secondo te chi l'ha detto? L'ha detto Silvio Berlusconi. Ha vinto Maurizio Tortorella. Lui è più esperto. Ecco, sentiamo Crozza di due giorni fa. Torna dunque in auge sul Gangnam Style, Silvio Style. Tutti lo sai, mi dico un forza vecchia roccia. Che tipo di valori tu potresti stare dalla saccoccia? Il solito tran tran di sesso, feste e poi la doccia. E anche il PD e lo scoccia. Lo sapete che pure Alfano e la Meloni vogliono far da sé, che vuole fare le primarie anche la Santa, che alle elezioni me che poco e ho capito che ho molto meglio esser me stesso senza voi. Il Silvio Style. Ma io dico, allora, Maurizio, per carità, cioè, se Silvio Berlusconi vuole ricandidarsi oggi, attenzione, perché Ferruccio De Bortoli in prima pagina sul Corriere della Sera fa un editoriale dal titolo La zattera della Medusa e scrive a un certo punto in maniera molto chiara: ma se un centrodestra, un gruppo dirigente liberale democratico all'altezza del proprio compito e responsabile, cosa deve fare? Deve avere la forza di separare il proprio destino politico dalla deriva solitaria e resistenziale del proprio capo. Allora vorrei partire da questa riflessione: non è che il centrodestra dovrebbe, un centrodestra che lo stesso De Bortoli dice viene richiesto da molti elettori, credibile, solido, dovrebbe avere la forza di fare questo? Ma ce l'avrà la forza o è sbagliato anche il punto di partenza, Maurizio? Ma allora, intanto, in realtà, questo paese nella sua stragrande, nella sua maggioranza sicuramente, proprio tradizionalmente è un paese moderato, che ha sempre dimostrato, anche nelle elezioni nelle quali poi ha prevalso il centrosinistra, per pochi voti, numericamente intendo dire, che ha comunque una divisione netta tra un centrodestra e un centrosinistra, cioè voglio dire, non ci sono come in altri paesi prevalenze oscillanti. Il paese è spaccato in due, lo è sempre stato tradizionalmente, sin dai tempi della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista e del centrosinistra. L'assenza politica in questo momento di un partito o di una alleanza di partiti sul centrodestra è sicuramente una cosa che deve preoccupare tutti. Lo ha detto del resto anche Bersani, quindi non è... Ma infatti, però è questa la soluzione, cioè la soluzione è sempre il coniglio dal cilindro, cioè mi ricandido Silvio Berlusconi, così non dà l'idea sempre di essere un centrodestra molto personalizzato, molto... La personalizzazione della politica e dei partiti è stata purtroppo un escamotage della Seconda Repubblica, ma continua a esserlo anche nella terza, perché dimmi tu se i partiti che passano al momento come partiti nuovi non hanno questa stessa identica caratteristica. Grillo che cos'è? Ma anche già ti dico, non è un partito, eccolo. È un non partito, è un non partito. Tutto quel che vuoi, ma è l'unico soggetto politico, chiamalo come diavolo pare a loro, un movimento, ma è tutto coagulato intorno a un uomo che governa in maniera autoritaria, diciamo, dire, usare un aggettivo del tipo di sì. Il suo partito, tant'è vero che le parlamentarie, cioè le primarie del Movimento 5 Stelle, sono governati in una maniera strana. Ma guarda, tra l'altro noi delle parlamentari o del metodo di selezione della prossima classe dirigente ne parleremo alle 8:30, perché è un tema molto, però interessante. Vorrei su questo anche Carlo Rienzi, al di là della personalizzazione, al di là del commento Berlusconi o non Berlusconi, una personalità tale da riempire Beh, questo sì, non c'è, è vero, non c'è una personalità per riempire questo vuoto. Rienzi, mi sembra un po' contraddittorio quello che dice l'amico vice direttore di Panorama, perché prima dice che non c'è una personalità, poi dice Grillo, però è la stessa cosa. Allora, secondo me qui non c'entra niente la moderazione e il fatto che appunto Renzi da una parte e Grillo dall'altro abbiano questa forza in questo momento è soltanto il segno dell'odio dei politici verso i politici e verso i partiti. La gente non ne può più, compreso me, se posso essere sincero, di gente vecchia che dice sempre le stesse cose, che predica bene e razzola male, che non è stata capace di togliere i vitalizi alla Regione Lazio, di togliere le schifezze che fanno, i privilegi che hanno, eccetera, eccetera. E quindi non è che Grillo è un altro Di Pietro, che ormai è finito pure lui nel fango, ma non è un altro Berlusconi. Grillo è l'idea che non ce la facciamo più con i partiti e con la politica tradizionale, perciò va forte. E anche Renzi è l'idea, e aggrega naturalmente però furbescamente poi anche quelli che diceva lui, cioè il centrodestra e quanti altri, è l'idea della sconfitta dei vecchi leader che hanno rotto, veramente hanno rotto, non ne possiamo più. Quindi è questo il problema, non è un problema di personalizzazione. Oggi vince chi non vota e vince Grillo, perché vince chi si è stufato di essere tartassato e maltrattato dai politici. È rompere il vecchio. Tra l'altro su Renzi, oggi voi di Panorama, Maurizio, avete proprio un servizio a che fa ora Renzi. Ma allora, ma questa idea, perché Renzi è organico all'interno di un partito, certo non è nella nomenclatura del partito che gli è tutta, quasi tutta contro, però è all'interno del Partito Democratico, appunto. Che deve fare Renzi? Potrebbe anche lui essere quell'elemento di rottura, ma che dovrebbe fare? Fare un suo partito, andarsene. Le accuse o le ipotesi di possibile scissione, secondo me, non troveranno poi una realizzazione concreta. Non immagino un Renzi fuori dal Partito Democratico. Voglio dire, per carità, poi in politica tutto è possibile. Credo che, come scrive giustamente Carlo Puca nel suo articolo, il primo passaggio importante che dovrà passare Renzi nel suo dialogare inevitabile con Bersani e con chi ha vinto le primarie, sarà quello di accordarsi su quelle che sono gli equilibri interni del partito. E certo, cioè che parliamoci chi portare un po' di gente in Parlamento, di amici suoi, ecco, diciamo. Comunque la mezza gaffa, esattamente, ma sicuramente di questo si tratterà. Ma d'altronde uno sennò come fa a contare se non ha in Parlamento dei, cioè, la gente si indigna per questi discorsi, ma come fa uno a contare? Deve portare in Parlamento alcuni parlamentari che la pensano come lui, portano avanti la sua linea politica. Non è che c'è altro modo, no? E a proposito di Mario Monti, Rienzi, le voglio far ascoltare quello che ha detto Mario Monti quando deve dire una cosa banale, tipo ho un anno in più di un anno fa, e la dice a modo suo. Mario Monti, sentiamo. Anche se devo dire i miei 4, presto 5 nipotini non sono molto capaci di cogliere nel mio invecchiamento attivo di quest'anno una forma di maggiore supporto e vicinanza alle loro giovani vite, perché sono completamente sparito, salvo qualche apparizione dietro uno strano schermo che toccano pensando di salutare il nonno. E la gente che ride, Carlo Rienzi. A parte che avete davanti a me un esempio di invecchiamento attivo di un anno. No, per carità, lunga vita e salute massima a Mario Monti. Però se lo poteva risparmiare. A sto modo di parlare. Monti sfrutta, secondo me, il contrasto confronto con Berlusconi, perché la gente lo vede e dice: ah, che brava persona, finalmente uno che invece di fare riferimento e battute alle pernacchie, ragazze, fanciulle, eccetera, parla di invecchiamento attivo. Della famiglia, della vecchiaia, cioè delle cose che sono un po'. L'invecchiamento attivo, lei è invecchiato attivamente l'ultima. Rienzi, lei è invecchiato attivamente l'ultimo anno. Perché ha ripreso a giocare a tennis, quindi mi sembra che ci sia un segno di positività in questo senso. Meno male. Ho sentito prima l'intervista a quel senatore del PDL che ha presentato circa 250 emendamenti. Rappresenta proprio il suo partito e il capo del suo partito. Milan, ma chi le dà la pazienza di ascoltare questa gente che sta ascoltando in questo momento? Chiuda il telefono, lo mandi a quel paese. Arrivederla, Milan. Chi si loda si sbroda. Invecchiamento attivo, ma dannoso. Non si mette mai in dubbio il nostro presidente del Consiglio. Caro Milan, bocca al lupo. Poveri noi italiani. Bye bye. Senti, Crozza farà sicuramente ridere, fa ridere anche me con i parlamentari, quelli di Grillo, ma sai, sono quelli veri, però quelli in carne ed ossa, quelli di oggi che ci hanno portato a questo punto, e non quelli di Grillo. Volevo dire solo due parole al signor Monti. Lo spread è sceso e dobbiamo farlo arrivare alla metà, è contento. Perché non fa scendere il numero dei disoccupati, signor Monti? Così siamo contenti anche noi. Lo sa come dicono a Bari? Usarsi, non credo di scendere. Matteo, non perdere tempo. Prenditi quel 40%, portalo alle politiche e gioca dalla fine in fondo. Alla generale Caster, o noi o loro. Loro, soviet, bolscevichi, leninisti, stalinisti, trotskisti, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Gernenko, mettiamoci anche a Gorbaciov e Putin. Roti Bindi mi sembra una mammaciona russa con i baffi. Quanto è bella! Vabbè. E qua voci un po' in libertà. E siamo con Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, e Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Sentite il sottosegretario Polillo che litigava con Landini della Fiom da Ballarò, e a un certo punto dice: perché la Germania va bene? La Germania, perché ha le aziende che vanno meglio? Perché la gente lavora in Germania, Tortorella, questo è il mantra di Polillo. Bisogna lavorare di più. La gente lavora in Germania, eh? Quelli che pagano le tasse. Maurizio, sto ascoltando, sì. Non hanno visto la lotta di Ballarò, ma ho visto poi la polemica sui giornali. La gente lavora lì in Germania. I ministri e i sottosegretari del governo Monti, come i politici in generale, spesso fanno gaffe, e forse questo è un caso. Ci sono dei dati statistici, peraltro, che in qualche misura danno ragione a Polillo. Per esempio, gli anziani tedeschi sono molto più attivi di quelli... Fanno l'invecchiamento attivo molto per, più... Per restare nel discorso di Monti, per l'appunto, tra i 60 e i 64 anni il tasso di attività dei tedeschi è il 40%, quello degli italiani è il 20%. È che dire una frase del genere col momento di crisi che c'è, magari sarà anche supportato da tutte le statistiche del mondo, no? Sta di fatto che sono cose assolutamente... Un po' infelici magari da uscire. Renzi, non lo so, che effetto le fa sentire? Anche gli italiani lavorano, a parte il tasso di disoccupazione che un po' adesso sta andando un po' uguale in tutta Europa, gli italiani lavorano in nero, cioè lavorano senza figurare, o lavorano come precari, e quello non viene considerato precariato. Pensa dentro la scuola, dove ci sono ancora decine e decine di migliaia di persone precarie, quindi non sono considerati lavoratori, ma quelli tutti gli anni mantengono in piedi la struttura scolastica, e noi abbiamo 2000 ricorsi in tutti i tribunali d'Italia per violazione dell'obbligo di non utilizzo strumentale, abuso del contratto a tempo determinato, e continuiamo ad avere sentenze favorevoli in tutta Italia che dicono che questa gente non poteva essere utilizzata in questo modo. Lavora. Sentiamo, lunedì scorso anche il nostro Alberto Forchielli ce l'aveva detto, ricordate, lo facciamo risentire Forchielli. Bisogna lavorare di più. Eccolo quelli lì. Che sono ancora lì che devono lavorare di più. Come si fa ad andare avanti? Bisogna lavorare di più come Polillo. Sentiamo Forchielli come Polillo. Risentiamo Polillo. La Germania. Perché ha le aziende che vanno meglio? Perché la gente lavora. Avete sentito, cari italiani? Popolo di debosciati, lì in Germania si lavora. Allora, io voglio ritagliarmi l'ultimo spazio per la copertina di Panorama, perché è un qualcosa che sicuramente anche, anzi faccio questo gioco al contrario, voglio partire da e proporla a Carlo Rienzi. Oggi sa Rienzi cosa mette Panorama in copertina? No. Inferno slot, sulle slot machine. Un problema che, per carità, affrontiamolo laicamente, è anche un settore e siamo penso il secondo al mondo, diventeremo come gioco d'azzardo legalizzato come utenti, ed è un settore che anche porta tanti posti di lavoro, quindi affrontiamolo in maniera laica, però è anche per molti un problema che sta diventando un grave problema sociale. Ecco, Rienzi, le piace l'idea di mettere questa... È un problema gravissimo che noi seguiamo da anni. Adesso aspettiamo questo ministro Balduzzi che faccia il decreto interministeriale per la prevenzione, cioè qui l'unica soluzione, ed è in tutta Europa, è la prevenzione, ed esiste un sistema che abbiamo presentato anche al congresso internazionale di Bolzano, che riesce con l'intelligenza artificiale collegata alle macchinette, alle slot, a individuare chi è a rischio di ludopatia e a bloccarlo. Chi gioca tanto. È una cosa importantissima e i monopoli lo sanno e sono d'accordo a farlo, eccetera. Ma si gira intorno al problema. Addirittura alcune società, come per le sigarette, che hanno interesse giustamente a che non ci siano morti da gioco come morti da tabacco, per non dover poi risarcire i danni, si stanno facendo avanti anche in Europa, non solo in Italia, per applicare subito questi sistemi, perché non si può continuare a fare centinaia di giochi online e sbarcato sul online. Ne arrivano anche altri. No, io, siccome ho 30 secondi purtroppo, Maurizio, ma Inferno slot titolate 700.000 malati di questa problematica. Sono di più, è un dato errato. Maurizio Tortorella dice che sono anche di più, Carlo Rienzi. Possibile, lo dice il dato con cui arriva il CERT. Erano 10.000 70.000 dieci anni fa, quindi c'è un aumento del 700% in 10 anni, e sono 424.000 apparecchietti installati in tutta Italia, è una crescita pazzesca, incassano 44 miliardi all'anno, 4 circa vanno allo Stato, va di fisco, ed è questo il punto. E questo è il punto fondamentale, che lo Stato ovviamente guadagna tasse su questo, e allora e poi dopo, e poi dopo, e poi dopo cura i cosiddetti ludopatici. Ma le sigarette non è la stessa cosa. Le sigarette è un po' la stessa cosa, sì. Ho chiesto il quarto grado per soluzioni a pioggia. Se parlo in questo modo ogni giovane mi appoggia. Vestito da Tamaro si potrebbe dire a Renzi sloggia. E poi anche Grillo taccia. Io sto meglio senza avere intorno a voi. Hey! Lo sai o no? Hey! Mi rottamo finalmente così poi. Hey! Ti piaccio o no? Hey! Torno a farla per la vita, sai chi c'è? Opla Silvio Stein. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Non ringrazieremo mai abbastanza l'autrice di questa sigla, che ogni tanto ci lascia messaggi in segreteria, che saluto calorosamente, ovviamente. Grazie, grazie. Siamo qui allora per la lettura dei giornali. Detto che avremo ospite il sindaco di Verona, Matteo Tosi. Sì, perché me l'ho detto Matteo Tosi? Flavio Tosi alle 8:15. Impredicato, secondo alcuni, di essere indicato come candidato premier nella nuova formazione Tremonti-Maroni, che ieri hanno siglato questo patto elettorale. Flavio Tosi, sindaco di Verona, con noi alle 8:15. Parleremo anche della scelta dei parlamentari. Allora, come vanno scelti? Vanno scelti con l'attuale porcellum, cioè tutto bloccato, scelto dai partiti? Vanno scelti, forse la forma estrema opposta, con le parlamentarie del Movimento 5 Stelle, 3 minuti a testa, e poi il popolo, la gente, deve scegliere chi, in base a questi 3 minuti di video, chi candidare in Parlamento? Come vanno scelti? Con le primarie anche per i parlamentari, come qualcuno propone all'interno del Partito Democratico dopo il successo delle primarie del centro-sinistra? La scelta dei parlamentari. Mancano pochi mesi, ne parleremo alle 8:30, ora i giornali. Allora, i titoli in questo giovedì 6 dicembre. Il Sole 24 Ore apre per il secondo giorno consecutivo su credito d'imposta ulteriori tagli. Questo avviene nella conversione molto elaborata del decreto sviluppo alle Camere. Poi la scelta di Berlusconi, che pare pronto davvero a candidarsi. Berlusconi pronto a tornare, così apre il Corriere della Sera. Repubblica: Berlusconi costretto a ricandidarmi. La Stampa: Berlusconi non cede, Italia sul baratro, pronto a tornare. L'Unità: Berlusconi ricatta Monti. Il Giornale: Berlusconi torna in campo. Poi il Messaggero: fisco, tasse record con l'IMU. Libero: il fisco ci spia i cellulari, Grande Fratello. Il Fatto Quotidiano torna sulla trattativa Stato-mafia. Trattativa: un solo colpevole, la procura di Palermo. Mentre Avvenire, un suo pallino, una sua inchiesta, con anche l'editoriale del direttore Marco Tarquinio: il gioco d'azzardo legalizzato, bisca Italia. Questo il titolo di Avvenire. Dilagano le slot machine. Il Manifesto: il sangue di Tahrir, dunque quello che sta succedendo in Egitto. Voglio partire però dalla segnalazione di un'inchiesta che parte, per la verità già c'è stato un prologo 2 giorni fa, con una doppia inchiesta sulla scelta dei dirigenti alla regione Lombardia e alla regione Puglia, ma ora parte un'inchiesta sui poltronifici regionali sul Sole 24 Ore. La prima puntata è affidata a Roberto Galullo e alla Calabria. In Calabria, girandola di manager, nominati oltre 200 dirigenti in partecipate agenzie da giunta e consiglio regionale. In particolare, Roberto Galullo oggi si occupa della vicenda della Fondazione Calabria Etica, che fa parte della regione Calabria, perché è una partecipata della Regione Calabria. Se nelle società partecipate spesso si annidano quelli che vengono definiti appunto i poltronifici, posti per persone magari che vengono trombate alle elezioni, alle quali poi viene trovato un posto lì. Ecco, per esempio, il presidente della Fondazione Calabria Etica, che potrà decidere di attribuire al Collegio dei Revisori Contabili un modesto compenso rapportato all'attività svolta per la funzione di revisore. Modesto compenso. Bene, il precedente presidente della Fondazione, Luigi Bulotta, non percepiva compensi per la sua attività, mentre l'attuale Pasqualino Ruberto, in carica da dicembre 2010, scrive il Sole 24 Ore, che per statuto può e non deve, ma può determinarsi un'indennità di carica oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, ha sfruttato invece appieno quella possibilità. Nel bilancio 2012 l'indennità di 133.000 euro più quella di del personale 118.000 euro. Euro più o meno sono 11.133 euro lordi al mese. Ruberto ha detto così, interrogato in consiglio regionale: mi sono autodeterminato un compenso pari al 60% dell'indennità di un consigliere regionale, che corrisponde a circa 5.100 euro netti al mese. Ecco, questa è la prima puntata di quella che è un'inchiesta che inizia oggi, sulla quale il Sole 24 Ore scrive: se c'è una cosa sulla quale le regioni non mancano sono le poltrone, e servono quasi sempre per far accomodare migliaia di fedelissimi della politica, senza distinzione di colore, senza distinzione di organo, giunto, consiglio. Le nomine fioccano sulle società partecipate, enti in house, fondazioni, associazioni, magari non servono, possono essere accorpate, ma servono appunto per dispensare poltrone. La prima puntata di questa inchiesta, che ovviamente seguiremo anche qui da segna stampa se ce ne sono altre, la Calabria e il caso della Fondazione Calabria Etica di Roberto Galullo, lo trovate a pagina 17 del Sole. A proposito di regioni, io spesso me lo chiedevo, ma Francone Fiorito, detto Air Batman, come starà in carcere? Perché è sceso il silenzio su di lui dopo la vicenda, dopo le tante interviste, no? Abbiamo imparato a conoscerlo anche così combattivo. Ebbene, ora la stampa svela un pochino, alza un velo su quella che è la condizione di Francone Fiorito in carcere, perché un deputato, Alfonso Papa del Popolo della Libertà, un altro che è stato 100 giorni a Regina Coeli e che da allora si impegna per denunciare le condizioni dei detenuti nelle carceri italiane, è andato a trovarlo, è prerogativa dei parlamentari. Allora Grazia Longo raccoglie la testimonianza di Alfonso Papa a pagina 21 della stampa. Fiorito in carcere, ricevo solo lettere di solidarietà. Così dice Francone Fiorito tra pasta, ragù e TV. Che noia qui dentro. Ecco, questa è la dichiarazione di Franco Fiorito, un Franco Fiorito in versione slim e abbacchiata, così racconta Alfonso Papa. L'ho trovato molto dimagrito, visibilmente depresso, soprattutto per la recente sentenza della Cassazione che ha confermato il provvedimento di custodia cautelare in carcere. Il suo primo pensiero alla mamma: le ho vietato di venirmi a trovare in carcere, non voglio che mi veda in questo stato. Il secondo pensiero alla politica: mi manca, sono preoccupato per le divisioni del PDL, deluso per l'ipocrisia di chi mi accusa di essere impresentabile. Il terzo al buon cibo: qui in carcere non è granché, meno male che i vicini di cella mi offrono piatti di pasta e merendine. Il cibo è quello che è, ma io non voglio comprare il fornello e le pentole come gli altri. Spero di uscire presto. Meno male che i vicini di cella sono molto gentili. Oggi mi hanno portato pasta al ragù. E poi sulle lettere, dice proprio così: ricevo tantissime lettere di solidarietà, mi fanno una grande compagnia. Però, risponde Fiorito, io non scrivo a nessuno, non replico a nessuno, non rispondo a nessuno. E perché? Ma non è mica scortesia. Ma considero un'onta scrivere qui dal carcere. Tengo sempre appresso a me il rosario, lo porto con me, la croce è un segno di espiazione ma anche di vittoria. Insomma, parla Franco Fiorito dal carcere. non parla, ma parlano per lui gli avvocati, Francesco Schettino, il comandante, pagina 16 del giornale. Ieri c'è stata la prima udienza per Schettino, che si è opposto al licenziamento della Costa. Davanti al giudice del lavoro, i suoi avvocati, è stato anche lui una vittima della nuova riforma Fornero, che ha riscritto le regole dei giuslavoristi sul licenziamento, oggetto di schermaglie procedurali della prima udienza di ieri. Gli avvocati di Schettino definiscono la riforma Fornero una riforma del Kaiser, indecente, inutile e dannosa, e chiedono che il comandante Schettino venga reintegrato al proprio posto, non in plancia di comando, si spera, ma comunque insomma che venga reintegrato come dipendente della Costa. Vera novità dell'udienza, il verbale di conciliazione firmato davanti al Tribunale di Napoli, che i legali di Schettino hanno recuperato per dimostrare la presunta disparità di trattamento tra il caso della Concordia e quello di un'altra nave della flotta rimasta coinvolta in un incidente al largo delle isole greche. In quel caso, dicono gli avvocati, non c'è stato nessun licenziamento. Schettino contro la Costa deve ridarmi il posto, perché la riforma Fornero è una riforma del Kaiser. Parola dei suoi avvocati. Continuiamo nella lettura dei giornali. Allora, il Sole 24 Ore, come detto, per due giorni, per il secondo giorno consecutivo, si concentra su il credito d'imposta e su quello che è l'ingorgone parlamentare che sta creando non pochi problemi, in questo caso per il provvedimento della crescita e dunque l'approvazione del decreto sviluppo. Un decreto sviluppo caos, slitta la fiducia. Marco Mobile e Marco Rogari raccontano alla pagina 5 come ci sia un'altra giornata di alta tensione alla Camera per il decreto sviluppo, con nuovi stop e nuovi limiti alla possibilità di usufruire il credito d'imposta, soprattutto per quel che riguarda le opere pubbliche. E in questo caso c'è anche stato un freno dalla Ragioneria Generale dello Stato su diverse norme, prima tra tutte quella sulla proroga quinquennale delle concessioni demaniali, vale a dire le spiagge. Soprattutto perché nella relazione tecnica del maxi emendamento inviata ieri pomeriggio si afferma che per il salva spiagge si profila una maxi multa europea che può andare dai 10.000 fino ai 652.000 euro al giorno per l'Italia. Questo incombe, una maxi multa dell'Unione Europea. Insomma, sul decreto sviluppo è davvero un po' un casino, per usare un'espressione molto molto poco formale, in questo momento in Parlamento. Mentre l'altra notizia che riguarda il mondo dell'economia e riguarda soprattutto la pubblica amministrazione viene dal ministro Patroni Griffi, che riguarda la vicenda riguarda 250.000 lavoratori precari della pubblica amministrazione, dunque diversi italiani. Ebbene, Patroni Griffi ha detto: niente sanatoria per i precari della pubblica amministrazione, nessuna stabilizzazione in massa per i 250.000 precari della pubblica amministrazione. Sto leggendo sempre dal Sole 24 Ore, pagina 10, nell'articolo di Claudio Tucci. Questo invece sì, un piano graduale per affrontare il tema del lavoro flessibile nella pubblica amministrazione, che prevede la presentazione di una norma che assegna alle amministrazioni pubbliche la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato che superano i 36 mesi o il maggior limite previsto dai contratti del comparto. Lo ha detto appunto il ministro Patroni Griffi, ma chiaramente questo già mette in allarme molti lavoratori della pubblica amministrazione. Come scrive anche il Messaggero, impossibile stabilizzare in massa i precari. I sindacati dicono ora ci sono già 250.000 lavoratori nel panico. E anche il Manifesto mette questa notizia in prima pagina con il titolo 260.000 precari di troppo. A pagina 4 il ministro Patroni Griffi dice: nessuna stabilizzazione, annuncia già 7.300 esuberi. L'unica possibilità, l'unico spiraglio, appunto quello di la possibilità di prorogare i contratti oltre i 36 mesi fino a luglio del 2013. Insomma, rischia di diventare una sorta di allarme sempre più concreto. Ma la notizia politica del giorno, è inutile rimandarla, è quella che vede un Silvio Berlusconi pare pronto a ridiscendere in campo per la quarta volta. Ieri c'è stato questo ufficio di presidenza del Popolo della Libertà, a tratti teso, questo raccontano in retroscena dei giornali, e poi quando tutto sembrava che si andasse, si profilasse un passo indietro, questo chiedevano per esempio a Berlusconi molti come Alfano e altri del partito, a dire cioè fai un passo indietro ma rimani il padre nobile del partito, però non puoi candidarti. E invece Berlusconi ieri in serata ha sparigliato le carte, come spesso fa, con un comunicato nel quale ha detto e ha scritto: l'economia è allo stremo, 1 milione di disoccupati in più, il debito che aumenta, il potere d'acquisto che crolla, la pressione fiscale a livelli insopportabili, le famiglie italiane angosciate perché non riescono a pagare l'IMU, le imprese che chiudono, l'edilizia crollata, il mercato dell'auto distrutto. Tirando le somme, in questo comunicato Berlusconi scrive: non posso consentire che il mio paese precipiti in una spirale recessiva senza fine. Non è più possibile andare avanti così. Sono queste le dolorose constatazioni che determineranno le scelte che tutti insieme assumeremo nei prossimi giorni. Insomma, se non è un preannuncio di ridiscesa in campo, poco ci manca. Infatti i giornali la vedono tutti così. Berlusconi: mi chiedono di ricandidarmi, titola per esempio Il Sole a pagina 20. Oppure il Corriere della Sera fa retroscena con Paola Di Caro a pagina 3, racconta cosa è successo ieri, duro faccia a faccia con i big e poi l'affondo del Cavaliere. Il colpo di scena arriva proprio alle 10:30 di sera, quando scrive Paola Di Caro: Berlusconi spariglia, pensavano di farmi fuori ma si sono sbagliati, io non mi arrendo. Così parla dei propri colleghi di partito, e aggiunge: sono assediato dalle richieste di scendere in campo. Ecco, questo se sia assediato dalle richieste di scendere in campo, questo non lo sappiamo, però lui dice così: rimando a decisioni che dovranno essere prese nei prossimi giorni, nonostante, racconta il Corriere, Gianni Letta, uno dei suoi consiglieri più stretti, gli abbia ripetuto anche ieri: Silvio, non farlo. Se si vota col Porcellum, che è la legge attuale e che Berlusconi, secondo tutti i giornali, vuole difendere estremamente, ti attaccheranno dalle cancellerie, dai media internazionali. Perché finire la tua grande storia politica così? Spenditi per una nuova legge elettorale, potresti guidare il partito, ma così no, non è servito. Lo sfogo di Berlusconi ai suoi: mi avete lasciato solo, mi avete abbandonato, ho sentito freddezza, lontananza e voglia di scaricarmi. Quando è arrivata la sentenza Mediaset ho visto solo 11, e ripeto, solo 11 lanci di agenzia di persone che mi difendevano, questo da un partito che io ho creato, al quale ho dato tutto. Un partito, scrive il Corriere, ancora pieno di ingrati, secondo Berlusconi, come Mario Mauro, vicepresidente del Parlamento europeo, che ieri lo ha definito inadeguato a ricandidarsi. Questi, avrebbe commentato Berlusconi, sarebbero gli uomini che dovrebbero difendermi in Europa, gente che io ho creato, gente che mi deve tutto. Che ingratitudine, che vergogna. Questo è lo sfogo di Berlusconi, che dunque pare pronta a ricandidarsi anche per Repubblica, ricandidatura più vicina. Tanti mi chiedono di salvare l'Italia. Un Berlusconi, scrive anche Carmelo Lo Papa su Repubblica, pagina 10, affranto, deluso dal proprio partito. Il partito resta e cambia nome, ma voi siete tutti una delusione. Nonostante Alfano, scrive Carmelo Lo Papa, abbia alzato la voce, si decida! Pare che Alfano abbia detto a Berlusconi: non possiamo stare a guardare quello che fa il Partito Democratico. Ma Berlusconi, insomma, in questo teso faccia a faccia, alla fine ha detto questo sfogo personale: mi avete deluso tutti, mi volete far fuori, mi volete mettere da parte. E anche il giornale titola così: Berlusconi sfida tutti e torna in campo. Tutto però si gioca, o molto si gioca, sulla questione dell'election day. Berlusconi più volte ha detto: voglio l'election day, questa è la posizione di Berlusconi. Se non c'è l'election day, cioè votare alle regionali e alle politiche tutto insieme, il che vorrebbe dire far finire la legislatura Monti prima e votare a febbraio, perché le regionali si è già fissato che si voterà a febbraio, se non c'è questa election day io stacco la spina a Mario Monti. Questa sarebbe la linea di Berlusconi, perché faccio cadere il governo, insomma, quella è la mia strategia. Attenzione però, perché su questo piano pare che il Viminale, cioè il ministro degli interni, non voglia sentirci. Leggete Fiorenza Sarzanini oggi a pagina 5 del Corriere della Sera. Secondo Sarzanini, oggi il ministro Anna Maria Cancellieri formalizzerà il suo no all'Election Day. Ci sono costi esorbitanti, meglio una settimana dopo con Molise e Lombardia. Questo è il titolo. Anna Maria Cancellieri ritiene già che la decisione del TAR di far votare nel Lazio il 3-4 febbraio ponga dei problemi molto gravi, soprattutto economici. La posizione del ministro è ferma. L'iter preparatorio cade durante le festività natalizie. Non è un caso che mai prima d'ora si sia votato per le regionali o per le politiche a gennaio oppure a febbraio. Dunque non si capisce perché questo dovrebbe avvenire adesso. Per rispettare l'iter previsto per la votazione delle regionali il 3, spiega ancora il ministro Cancellieri, l'ultima fase di raccolta firme coinciderà col periodo di festività natalizie e Capodanno. Vorrebbe dire tenere aperti gli uffici elettorali il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, quando gli uffici sono chiusi. Insomma, informerò stamattina i miei colleghi di governo della situazione, poi decideremo cosa fare, tenendo conto che sarebbe opportuno far votare contemporaneamente il Lazio, Molise e Lombardia. Però sull'Election Day ancora non si pronuncia, ma pare proprio davvero deciso che anche l'Election Day sia una cosa non fattibile e dunque su questo Berlusconi potrebbe davvero rompere. Stiamo a vedere. Tiene banco ancora la polemica sulla trattativa Stato-mafia, la decisione della Corte Costituzionale di dar ragione al Quirinale nel ricorso che ha sollevato il conflitto di attribuzione nei confronti della Procura di Palermo. Il Fatto Quotidiano fa le prime 4-5 pagine accusando un solo colpevole, a questo punto la Procura di Palermo. Il Fatto Quotidiano intervista anche Nicola Mancino. Spirito dell'intervista di Marco Lillo è questo: caro Nicola Mancino, a questo punto, visto che verranno distrutti i nastri, lei è l'unico che, visto che Napolitano non è che realizza interviste, fa interviste su questo tema, lei è l'unico che può dirci che cosa vi siete detti in queste telefonate. E Mancino risponde: non parlerò mai, non posso parlare di queste cose. Voi continuate a scrivere che sono un cittadino comune, la verità è che io, per gli incarichi che ho rivestito, non lo sono. Io ho il dovere di rispettare la legge, non posso parlare con un giornalista di conversazioni che sono state secretate, che per la Corte Costituzionale vanno distrutte. Ma così resterà sempre un alone di mistero, chiede Marco Lillo, tenta in tutti i modi di strappare qualcosa. Dai resoconti si sa che in una telefonata era di auguri, ma nelle altre avete parlato dell'indagine di Palermo, chiede Marco Lillo. A parte il fatto che quelle di auguri erano due, risponde Mancino. Lei non vuole capire che io non posso parlare di queste cose. Ho solo posto per iscritto al capo dello Stato la questione del coordinamento delle indagini tra le diverse procure. Non c'è nulla di segreto in questo, perché la lettera è poi stata trasmessa dalla Procura Generale del Presidente. Comunque dice: non rispondo, non dirò mai quello che ci siamo detti. Il Giornale attacca: c'è un soccorso rosso in campo per Ingroia, Di Pietro, Di Liberto, Ferrero corrono in sostegno del magistrato. Attaccano il Giornale anche sulla vicenda della denuncia che il Giornale vuole fare nei confronti di Ingroia, che in pratica ha detto che Forza Italia era in qualche modo, pur non legata, era una naturale prosecuzione ed è nata in un momento in cui la mafia era molto forte, no? La mafiosità di Forza Italia. Oggi Sallusti, il direttore del Giornale, che è ai domiciliari, torna a scrivere su questo tema contro Ingroia, e poi conclude il suo editoriale Sallusti: la tesi di Di Pietro, per esempio, è la seguente: chiunque, anche un PM, ha diritto di esprimere liberamente le sue idee. Giusto, ma mi chiedo, se non è diffamazione grave sostenere senza prove che Forza Italia è il partito della mafia, per quale diavolo di motivo io mi trovo agli arresti, cari buffoni? Così conclude il suo editoriale rivolto ai politici, ed alcuni politici, soprattutto Alessandro Sallusti. Ma sulla questione intercettazioni vi voglio segnalare l'articolo, secondo me, più interessante, perché è un intreccio che potrebbe avere sviluppi, e lo scrive La Stampa a pagina 10. Sotto l'articolo Stato Mafia, lo scontro su Ingroia, le polemiche per le dichiarazioni del PM ora in Guatemala, c'è questa notizia, firma Riccardo Arena: in Sicilia finiscono nel mirino le telefonate del procuratore Messineo. Ma come? Il procuratore capo della Procura di Palermo? Ebbene sì. Riccardo Arena scrive: c'è un'intercettazione, un'intercettazione casuale, fortuita, indiretta, con un imprenditore coinvolto in un'indagine, proprio come le captazioni delle quattro conversazioni tra Napolitano e Mancino, oggetto della querela tra Quirinale e Procura di Palermo. Solo che in questo caso la vicenda riguarda il capo dell'ufficio, Francesco Messineo. La scorsa primavera, infatti, gli investigatori palermitani si ritrovano ad ascoltare una conversazione in cui uno dei coinvolti chiede a Messineo chiarimenti su un'inchiesta della Procura. Uno dei coinvolti, cioè un indagato, chiama il procuratore capo di Messineo di Palermo per capire chiarimenti su questa inchiesta. Non senza imbarazzo le carte vengono consegnate ai titolari dell'inchiesta, che sono a Caltanissetta per competenza. E qui c'è l'ufficio che indaga sui reati che riguardano, ipotesi di reato che riguardano i magistrati di Palermo. È un atto dovuto, fino a questo momento non c'è un'indagine in corso. Messineo dice: non ho notizie di indagini, non posso dire nulla. Sapete chi è che ha firmato all'epoca, questa primavera, la richiesta delle indagini, insomma, per questa intercettazione? Il PM Ingroia, Antonio Ingroia, da Palermo, per un'intercettazione casuale in cui è coinvolto il suo capo Messineo, il quale dice, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, le sentenze non si commentano, e invece Ingroia fa interviste. Beh, un intreccio che, insomma, non è male, non è male. La cronaca, invece, è molto legata a quello che è successo a Scampia, questo delitto. Orribile come tutti i delitti, ma orribile anche per la modalità, perché una delle persone che scappava dai killer ha tentato di trovare rifugio in una scuola materna, non per questo è stato risparmiato, è stato freddato. Tutti raccontano tra l'altro che per un caso i bambini in quell'ora, siccome la mensa non era disponibile e quindi hanno dovuto mangiare nelle classi i bambini, perché altrimenti quella era l'ora proprio in cui dovevano uscire dalle classi e sfilare per andare verso la mensa. Quindi proprio in quell'ora, in quel momento, per un caso fortuito, non c'erano anche i bambini, non si sono ritrovati all'interno di questa sparatoria, di questa fuga finita con una sparatoria. Il PM Cantone, il giudice Cantone, oggi è in Corte di Cassazione, è stato per tanti anni un PM anticamorra, alla stampa Guido Ruotolo dice: mai vista tanta ferocia, perfino Cutolo è meglio di questi qui, e racconta appunto di ormai come non ci sia rispetto per nulla, neanche il rischio, la possibilità di coinvolgere anche i bambini, come poteva succedere in questo caso. C'è un bell'articolo di Roberto Saviano nelle prime pagine di Repubblica: Scampia senza legge, la camorra uccide nella scuola materna. Continua poi a pagina 2 e 3. Tra l'altro c'è uno spunto di Saviano che ritorna su questo tema, prendendo spunto da questo omicidio. Racconta Saviano: in questo momento di crisi è fondamentale capire quanto le piazze di spaccio siano tornate a essere centrale per i clan, e per questo, visto che sono la nuova fonte primaria di ingresso di liquidità nelle casse, non mi stancherò mai di ripeterlo: parlare di legalizzazione della droga in questo momento non è solo necessario, ma anche una scelta obbligata per sottrarre alle organizzazioni le fonti primarie di approvvigionamento di denaro. Dunque, prendendo spunto da questa vicenda, Roberto Saviano su Repubblica rilancia questo tema, la liberalizzazione delle droghe. Eccoci alle 8 e 17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vogliamo parlare di attualità e di politica, lo facciamo intanto con il primo ospite nostro, è il sindaco di Verona, Flavio Tosi, che è anche segretario della Lega in Veneto. Buongiorno sindaco, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Senta, ieri abbiamo assistito a questa alleanza, per qualcuno può sembrare un'alleanza un po' strana, tra la Lega e la lista Lavoro e Libertà di Giulio Tremonti. Non è un po' strana come alleanza? Cosa c'è di comune? Ma perché? Cioè, mi spieghi la domanda, che non capisco perché sarebbe strana. Ma intanto Giulio Tremonti era del Popolo della Libertà fino a poco fa. Sai, guardi, a Verona, visto che il nostro segretario federale Roberto Maroni cita spesso il modello Verona, è stata fatta una cosa del genere, perché quando abbiamo votato per le comunali 6 mesi fa, poco più, si è proprio scelto di fare alleanza con alcune parti del PDL, quelle che condividevano un programma, mentre le altre parti se ne sono rimaste escluse. Quindi direi che è una cosa intelligente, perché è una condivisione di programmi, ed è su quello che oggi che devi chiedere il voto ai cittadini, perché i simboli contano relativamente, i programmi e le persone molto di più. I programmi e le persone. Non c'è allora il rischio di legarsi comunque a una persona che è stato il precedente ministro economia del governo Berlusconi, e quindi magari per molti può essere associato anche alla situazione in cui ci troviamo in questo momento? Bah, la situazione in cui ci troviamo nasce distante nel tempo, nasce dall'80 al 95, quando il debito pubblico passa dal 60% al 125%, cioè quei governi hanno devastato le casse dello Stato e adesso paghiamo il dazio. Tremonti è una persona che l'economia ne capisce anche di riduzione della spesa pubblica, è una persona che può assolutamente condividere il programma della Lega, che appunto è quello di riportare, rimettere in sesto questo paese riducendo la spesa pubblica. Si parlava anche di un'alleanza a tre con Raffaele Lombardo, e pare che Tremonti la farà al sud con Raffaele Lombardo, ex governatore della Sicilia. Su questo invece la Lega ha detto, mi pare di capire, no, nessuna alleanza con Lombardo. Ma perché invece Lombardo cosa non vi piace di questo possibile trittico? Beh, credo che, almeno vado a memoria, Lombardo sia ancora oggi accusato di problemi, diciamo, legati alla gestione dell'amministrazione regionale siciliana, mafia e quant'altro, se non erro. Sì, è indagato per associazione esterna alla mafia, e quindi questo è una cosa non propriamente simpatica, insomma. No, questo sì. E allora però come si fa a stare, lei dice non, i partiti non contano più, contano le persone, i programmi, però voi state con Tremonti che sta anche, pare, con Lombardo al sud. Questo... io spero che Tremonti non faccia una scelta, perché non è una scelta definita, e mi auguro che Tremonti non la faccia, perché in effetti anche da un punto di vista della coerenza, per Tremonti credo che non sia facile spiegare un'alleanza del genere. Ripeto, spero che Tremonti non faccia un'alleanza del genere. Non faccia questo. Senta, c'è la questione premier, candidato premier, alla quale lei non può sfuggire, perché secondo molti retroscena di giornali Tremonti potrebbe essere il candidato del premier di questa alleanza, ma in realtà molti pensano a Flavio Tosi, candidato premier, all'interno anche della Lega. Lei lo farebbe il candidato premier? Ma allora, partiamo da un presupposto. Io comunque resto a fare il sindaco della mia città. Ho chiesto il consenso ai cittadini di nuovo pochi mesi fa, e quindi sarebbe inammissibile che mi dimetta per andare a fare parlamentare. Dopodiché la candidatura a premier, io sono un militante della Lega da più di 20 anni, e quello che decide il movimento si fa. Se è una cosa di bandiera, nel senso per rappresentare il movimento in una corsa sapendo che il premier non lo faccio, ecco, se ci fosse il rischio di fare il premier allora mi porrei il problema. Per fortuna il rischio di fare il premier non c'è, perché che ci sia un premier della Lega è quanto mai improbabile, visto che fra l'altro io credo personalmente che le cose da Roma sia molto difficile cambiarle, perché a Roma le cose non cambiano mai. Quindi ecco, se la Lega facesse questo tipo di scelta, a noi intanto interessa la Lombardia, cioè tutto quello che è funzionale alla vittoria in Lombardia per Maroni e per la Lega sta bene. Però insomma, ho capito, in Parlamento non gliene frega niente perché fa il sindaco di Verona, però ecco, appunto non è necessario essere parlamentari per essere premier, anzi tutt'altro. Candidatura premier, un po' ha risposto, nel senso che dice tanto un premier della Lega non ci sarà mai, quindi se deve essere di bandiera e così pare non le interessa più di tanto, ecco. No, dico, potrei farlo proprio per quello, nel senso che se ci fosse l'ipotesi di un impegno vero in quel senso nei palazzi romani non lo farei, perché appunto ho da seguire la mia città. Se è una cosa che invece dura il tempo della campagna elettorale per sostenere le tesi della Lega sacrosante di ammodernamento del paese, di sburocratizzazione, di riduzione della spesa pubblica, quello lo si può anche fare, ripeto, sapendo che tanto non c'è il pericolo di fare il premier. Lo faccio tanto so che non vincerò mai, è un po' curiosa come posizione, dice. Mi candido. Io sono realista e non credo che qualcuno oggi in Italia pensi che un leghista possa andare a fare premier per quelle che sono le condizioni elettorali. È sano realismo, però questo non vuol dire

ci costringerà qualcuno tipo l'Europa a farlo, però probabilmente sarà troppo tardi. Ultime due domande flash. La prima è: la Lega secondo lei dovrebbe candidare parlamentari o perché è un dibattito credo all'interno della Lega, o dovrebbe per un giro, come si dice, stare fermi, cioè non mandiamo nessuno a Roma e occupiamoci del territorio alle prossime politiche? Allora, ci sono tre valutazioni da fare, almeno ripeto, questa è la mia opinione personale. Una, il non far trovare il nostro simbolo sulla scheda agli elettori. Questa è una cosa che è da valutarsi, perché il nostro elettorato si identifica in quel simbolo, non farglielo trovare sulla scheda è una cosa da valutare con attenzione. Due, essere presenti a Roma vuol dire comunque conoscere le situazioni, poterle controllare, e se anche magari non riesci a portare a casa i risultati che ti aspetti, almeno puoi fare delle battaglie all'interno delle sedi del Parlamento e quindi portare delle posizioni di buon governo e di buona amministrazione. L'altra considerazione che andrebbe invece a favore della scelta di non esserci è quella che molto probabilmente le cose da Roma non cambieranno neanche stavolta, cioè è molto più facile cambiarle se Maroni diventa presidente della Lombardia, quindi forzando le cose dalle regioni, con una trattativa delle regioni del nord con lo Stato centrale per cercare di imporre il cambiamento dal basso, perché ecco, cambiare le cose da Roma, credo che per come sono andate le cose in decenni di governo, le cose a Roma non cambieranno. Beh, due motivi a uno per esserci, due a uno, diciamo, uno in più per esserci piuttosto che uno. Sì, ecco, mettiamola così. E l'ultima cosa, vi siete più sentiti con Formigoni, con il quale ogni tanto siete vicini di regione, ma ogni tanto volano un po', sono volate parole un po' di critica, diciamo così. Formigoni sta facendo una sua scelta, che è quella di sostenere la candidatura di Albertini. In bocca al lupo, ognuno fa, siamo in democrazia, ognuno fa quello che è meglio per sé. No, beh, questo sì, chiaro. Tanto la ringrazio, buona giornata al sindaco di Verona, grazie per essere grazie stato con noi, Flavio Tosi, il sindaco di Verona della Lega e segretario della Lega in Veneto. Ci fermiamo, poi vogliamo parlare con voi anche, cari ascoltatori, chiamateci all'800 24 0024. Come vanno scelti i parlamentari secondo voi? L'attuale legge impone ai partiti, e non verrà cambiata molto probabilmente, il Porcellum, la possibilità di scegliere quello che vogliono, oppure i candidati però alle parlamentari in Parlamento come vanno scelti? Dall'altra parte sappiamo il Movimento 5 Stelle fa queste parlamentarie, cioè scelga il popolo ascoltando tre minuti di video di tutti i candidati. C'è il PD, qualcuno chiede: facciamo le primarie anche per scegliere chi dobbiamo mandare in Parlamento. Come dovrebbe essere questa scelta? Vorreste una legge elettorale con le preferenze? È giusto delegare ai partiti invece la scelta? Come devono essere scelti questi parlamentari in vista delle prossime politiche? Il Porcellum prevede che vengano scelti nelle sacre stanze dei partiti e calati dall'alto, ma come devono scegliere questi partiti? Nel Partito Democratico qualcuno dice: visto il gran successo delle primarie che ci sono appena state del centrosinistra, facciamo le primarie anche per scegliere i candidati. Nel Movimento 5 Stelle fanno invece questo strumento innovativo, sicuramente, le parlamentarie. Allora vogliamo parlare con la senatrice del Partito Democratico, Marina Magistrelli, che saluto, buongiorno e benvenuta senatrice. No. Saluto anche Luca Zacchero, che è un consigliere comunale a Novara del Movimento 5 Stelle, buongiorno e benvenuto Zacchero. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora intanto senatrice Magistrelli, le chiedo, è vero come scriveva Libero ieri che circolano dei bigliettini all'interno del Parlamento con tutti i maggiorenti del partito, immagino di tutti i partiti, che dicano: io ne voglio portare 40, io 30 dei miei, cioè nel senso si studiano tutte le strategie per portare le proprie truppe cammellate, se mi consente, è vero? Non mi risulta, ma potrebbe essere anche vero. Sarebbe sbagliato se fosse vero, perché è chiaro che c'è bisogno di fare un passo avanti rispetto alle tecniche vecchie che i partiti utilizzavano per la scelta dei candidati. Naturalmente è da quando c'è il Porcellum, ognuno porta le proprie truppe. È per questo che noi del Partito Democratico vorremmo superare il Porcellum e andare verso una legge che garantisce un rapporto diverso tra elettori e persone che vengono scelte per andare in Parlamento. Ma questo non succederà, lo sappiamo sì, benissimo. Non succederà. Ma non per colpa del Partito Democratico. Vabbè, questo poi dopo, diciamo, è vero che Silvio Berlusconi è quello che pare voglia di più tenere il porcellum, però questo poi deciderà, si vedrà come. Il dato di fatto è che rimarrà, immagino, questa legge elettorale. Quindi come si scelgono? Per esempio, si è dibattuto sulle primarie. Lei è a favore delle primarie nel partito? Assolutamente, se si va avanti con il porcellum, l'unica possibilità per far scegliere i candidati parlamentari ai cittadini è fare le primarie, ma le facciamo solo come Partito Democratico, gli altri partiti le faranno? Gli altri partiti le fai, chi lo sa? In teoria forse no, cioè uno fa quello che vuole, cioè può scegliere appunto nelle sacre stanze del partito. Però cosa vuol dire le primarie del PD? Cioè, nel senso, è anche una macchina organizzativa imponente immaginare che tutti i candidati debbano in qualche modo fare una sfida preelettorale. Io le vedrei così, ma personalmente, poi naturalmente non sarò io che decido, sarà la direzione, sarà l'Assemblea nazionale. Per i candidati che si ripresentano per un secondo mandato, valuterei il lavoro fatto, la capacità di essere presente sul territorio, le presenze in Parlamento, i disegni di legge, farei un discorso di qualità. Per i nuovi invece li farei scegliere alla popolazione che poi li deve votare, quindi primarie come quelle che ha fatto Bersani quando si è candidato alla presidenza del Consiglio, prima ancora Bersani quando si è candidato alla segreteria. Ho capito, ma del non, sono, non sono 4-5 candidati, sarebbero, non so, si presentano 5.000 persone che vogliono un posto in Parlamento del Partito Democratico, che si no, fanno? No, è chiaro che ci dovrà essere una selezione prima, beh, va bene, adesso non credo che sia... Che le possiamo fare come le ha fatte Grillo. Ecco, non credo che le abbia fatte come le ha fatte Grillo. No, sentiamo perché è interessante. Qui abbiamo Luca Zacchero che invece. Zacchero, intanto, non mi interessa tanto le polemiche sulle regole, è una questione interna del movimento. So che c'è un grande dibattito, ma il metodo che è stato scelto da Beppe Grillo, perché ha visto che c'è anche molta ironia su questi video che girano su YouTube. Ma come si fa in 3 minuti a presentarsi e dall'altra parte in 3 minuti a giudicare una persona? Ma guardi, io innanzitutto volevo dire che c'è una grande differenza tra i due metodi. Uno, quello scelto dal Partito Democratico, ma immagino anche da qualunque altro partito voglia mettersi a fare delle primarie, comporta il fatto che si scelga un leader, dopodiché questo leader, a seconda di chi è, impone la propria cordata e quindi sceglie insieme ai propri collaboratori le persone da mettere dentro le liste e la posizione in cui metterla in lista, perché sappiamo benissimo che con il porcellum poi si entra non secondo preferenze ma secondo la posizione in cui si è in lista. Certo. Più in alto si è, certo, e più facilmente si entra. Noi abbiamo adottato il sistema inverso, cioè incominciamo a scegliere i parlamentari da mettere dentro e la posizione da mettere in lista, in cui metterli in lista. Sì, ma come, facciamo... ripeto, come si fa a scegliere in 3 minuti? Cioè io vedo un video di uno che in 3 minuti si presenta e come faccio a dire, boh, mi piace, dalla faccia, cioè devo essere... Ma lui è iscritto al Movimento 5 Stelle. No, io no. E quindi non può votare. Vabbè, questo me ne dispiace. Invece chi... No, anche a me dispiace molto in realtà. Però il problema non si pone, perché chi è iscritto al Movimento 5 Stelle e lo è da prima di una certa data, perché abbiamo messo una data limite, sì, pregressa, conosce le persone con cui ha lavorato sul territorio. Ah, quindi le persone che vede in realtà sono persone che ha già frequentato nei meetup, nelle... quindi... Naturalmente, e sì, se no... Quello è un biglietto da visita finale, tanti, diciamo. Tanti saluti a tutti, perché il principio fondamentale è quello di partecipare, per cui chi ha partecipato, conosce già le persone. Dopodiché questa è, diciamo... quei 3 minuti di video, meglio brutti che siano, perché poi non siamo tutti bravissimi, no, a stare davanti a un video, ognuno ha le sue caratteristiche, che non è neanche la prima prerogativa che dovrebbe avere un parlamentare, cioè non è che si giudica davanti da questo un video. No. infatti non è quella la prima competenza che dovrebbe avere un parlamentare, no, per cui bisognerebbe andare a vedere dei curriculum. Io sono un pochino, se vuole, anche divertito, mi è piaciuto molto Crozza l'altro giorno. Sì, beh, è stato straordinario, mi sono veramente ammazzato dalle risate, però ovviamente a parte le macchiette, ci sono persone estremamente competenti dentro il Movimento 5 Stelle, cioè tra i candidati, parlo dei 54 di Piemonte 2 per esempio, ci sono matematici con 110 laureati, con 110 lode, disoccupati, ci sono ingegneri, ci sono architetti, ci sono persone estremamente competenti. No, ma è interessante. Chi lavora sul territorio li conosce. È interessante, quindi... cioè cittadini, comuni che si sono impegnati nel Movimento 5 Stelle. Mi faccia chiedere questa alla senatrice Marina Magistrelli, che cosa contesta lei di questo metodo, per esempio, ideato dal Movimento 5 Stelle, che vorrebbe essere un metodo di democrazia molto partecipata, dal basso, per cui, come dicono loro, uno vale uno, e ci mettiamo qui con la faccia e portiamo persone nuove, persone che si impegnano per il territorio a Roma. Cosa c'è da contestare in questo? Prima della contestazione vorrei spezzare una lancia a favore almeno del metodo, della ricerca di un metodo nuovo, perché qui si va da un minimo a un massimo. Il minimo è che lo sceglie il segretario del partito, quattro persone nella famosa stanza fumosa. Il metodo più aperto, il massimo, sono le primarie. Questo è un partito nuovo che cerca soluzioni e forme alternative. Questa è la parte positiva. La parte negativa è che prima di tutto sono solo online e questo mette fuori una gran parte di persone che invece non sanno connettersi e non sanno usare lo strumento. E poi che il perimetro è molto stretto. E poi che tutto sommato la base su cui pescare è formata da gente che non è stata eletta già nei comuni o nelle elezioni a cui hanno partecipato precedentemente. Quindi in qualche modo, non essendo stata eletta, possiamo dire che non è stata scelta per un ruolo magari in un ente comunale, sì. E magari viene riproposta per il Parlamento. E poi perché sono primarie fatte in casa, non sono primarie. E beh, che devono fare? Cioè, le primarie all'interno del movimento, insomma, di chi devono scegliere? Non sono primarie. Devono scegliere i loro rappresentanti. Nel linguaggio comune, lo possiamo anche cambiare il linguaggio, ma nel linguaggio comune corrispondono ai congressi, alle assemblee interne, non sono primarie. Ma lei sta parlando, lei già parla di primarie, loro lo chiamano parlamentari, le dice che è un partito e loro dicono che sono un movimento e un non partito, invece dello statuto hanno lo statuto, è chiaro che... Ho capito, ma da un non partito, da un movimento aperto, io mi aspettavo un'apertura maggiore nella scelta dei loro candidati, allora, però li rispetto. Facciamo così, le risponde tra un attimo, dopo il traffico, Luca Zacchero. Poi le volevo chiedere anche questa cosa, lei senatrice, perché so che lei ha proposto questa cosa: dovrebbero candidarsi solo coloro che hanno già un lavoro. Allora, come scegliere i parlamentari? Siamo con la senatrice Marina Magistrelli del Partito Democratico e con Luca Zacchero, al quale chiedo se vuole replicare, insomma, la mancanza di totale trasparenza, di un'apertura molto forte, anche se ci sono anche stati dei complimenti per il sistema innovativo. Luca Zacchero è consigliere comunale a Novara del Movimento 5 Stelle. Zacchero, che replica la senatrice? Trovo un po' di conflittualità in quello che dice, nel senso che a parte il fatto che mi sembra evidente che queste non sono primarie, se no le avremmo chiamate primarie, quindi già voglio dire, lessicalmente sì. c'è una differenza e il contenuto, e nel contenuto, quindi non è solo una differenza lessicale, il contenuto l'ho chiarito prima, cioè si parte al contrario, è la base che sceglie. Dopodiché sono 1400 in tutta Italia i candidati, vedremo quanti voti verranno espressi e come verranno distribuiti. Però anche il fatto che sia tutto online, è vero che voi puntate molto su questo, chi è nel movimento sicuramente conosce l'online, utilizza l'online. Io credo che la senatrice abbia una visione abbastanza distorta degli italiani, nel senso che ci sono persone che sono anche un po' avanti con l'età, e che sono ottimi fruitori sia di internet e comunque voglio dire sì, però però un pochino è escludente, ci sono anche molte fasce della popolazione che non, purtroppo perché non conoscono. Questa è una cosa su cui si deve lavorare e si lavorerà diffondendo internet e il suo utilizzo, possiamo pensare di restare legati alle esigenze dell'Italia che invecchia, bisogna tenerla in giusto conto, ma adeguarsi. Bisogna anche adeguarsi. Però mi faccia chiedere questo alla senatrice Magistrelli: perché lei ha detto bisogna candidarsi solo se uno ha un lavoro già? Questo mi pare di aver capito, è la sua posizione? Lo spiego meglio, naturalmente sì. Non è che non possiamo candidare i disoccupati, tutt'altro, in questo momento storico anzi farei proprio una scelta politica a favore di questo, però noi parlo del Partito Democratico, parte della classe dirigente è classe dirigente che proviene dal funzionariato, cioè sono funzionari di partito, parlo di segretari regionali, molti anche dei parlamentari presenti attualmente in Parlamento, molti dei consiglieri regionali. Io pensavo che fosse necessario a questo punto fare un salto di qualità, cioè candidiamo la gente che ha un lavoro, visto che la politica dovrà essere sempre più a tempo determinato, non breve, a tempo determinato. Ah, lei è una grillina. È una grillina, no, lei. Io sono una del Partito Democratico, una fondatrice del Partito Democratico. Allora, a tempo determinato io ho bisogno che quando mi giro per ritornare a casa mi trovo una situazione lavorativa accogliente. Se io il lavoro non ce l'ho, è chiaro che quando torno a casa andrò a fare l'assessore in provincia, l'assessore in comune, consigliere regionale, perché noi abbiamo degli esempi che c'è gente che nell'arco della vita non ha lavorato mai. E il partito si deve far carico da quando c'ha 20 anni fino a... Capito, ma lei mi sta dicendo che sta dicendo anni. Che la politica non è un lavoro. Esatto. Non è un lavoro, secondo lei, la politica. No, non è un lavoro. È un servizio a tempo determinato. Beh, in questo forse Zacchero sarà d'accordo. Quindi lei prediligerebbe quelli che hanno già... Non le piacciono i trombati della politica, ecco, parliamoci chiaro, quelli che vengono definiti così. Non mi piacciono i politici di professione. Non piacciono i politici di professione, neanche a Zacchero, ovviamente. Su questo sarete d'accordo, no, Zacchero? Di professione, il politico di professione risponde al partito. Il politico di professione, sì, però, invece mio, la persona autonoma, libera, risponde a se stessa e alla propria coscienza, agli elettori. No, mi sembra una posizione. Perché è libera? No, mi sembra giusto. È economicamente libera, perché io se dico di no, mi alzo e torno a fare il mestiere che facevo prima. Se invece io non ho soldi da dare alla mia famiglia, è chiaro che mi astengo anche dalla capacità di critica, di reazione rispetto a determinati provvedimenti o a determinate cose. Insomma, non le piacciono quelli che rispondono a logiche di partito. Zacchero, su questo diceva se sarà totalmente d'accordo, no? Ma io sì, sono assolutamente d'accordo, però voglio dire, mi sembra una posizione di buon senso. Quanto poi questo si riesca a declinarlo all'interno del PD, ecco, un po' lei. Ecco, infatti, Magistrelli, lei si rende conto che forse è un po' minoritario all'interno del partito in questa sua idea, o no? Forse sì. Lo vedremo. Io so che parecchia gente la pensa come me. Certo, noi siamo un partito che è stato fondato dalla tradizione culturale di diverse formazioni politiche. Nella mia regione, per esempio, chi proviene da Democrazia e Libertà sono tutte persone che hanno un lavoro. Chi viene dal PDS, molti sono funzionari di partito. Si tratterà con equilibrio, almeno iniziare dai giovani. Magari la classe dirigente che già c'è, che peraltro è anche brava, devo riconoscerlo, andrà avanti e farà il suo percorso, ma io quello che non ammetto è che noi, in forza del rinnovamento e praticamente sul presupposto che dobbiamo ringiovanire, togliamo gente di esperienza brava per metterci dei polli di batteria. Dei polli di batteria, che sarebbero chi? Che non hanno un lavoro, che non hanno costruito niente nella loro vita, però hanno scelto di fare politica a 20 anni, non hanno mai lavorato, non sanno cosa sono le preoccupazioni, non sa cos'è il sudore, protetti all'interno del partito e poi li accompagniamo per 40 anni di vita politica. Questo no. Questo se no. Andava bene alcuni anni fa, adesso non è più accettabile. Va bene, intanto staremo a vedere come verranno composte le liste. C'è tempo. Vi ringrazio, la senatrice Marina Magistrelli del Partito Democratico e Luca Zacchero, consigliere comunale a Novara del Movimento 5 Stelle. Seguiteci e ci ritroviamo domani alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.